Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio. Ogni tanto è un dovere, ma è anche un piacere fare un'eccezione. L'eccezione di oggi è un riflettore puntato sulla squadra del giorno, che è certamente il Novara. Certamente perché al di là dei 5 gol segnati ieri in trasferta, tra l'altro su un campo di Serie A, perché ha giocato sul neutro di Udine, del Friuli di Udine contro il Portogruaro, ma perché il Novara dopo 8 giornate di campionato ha segnato la bellezza di 17 gol, quindi ha il miglior attacco complessivamente sia della Serie A che della Serie B, ha strabattuto a domicilio l'altra neopromossa di stagione, che è per l'appunto il Portogruaro. È vicino ai vertici della classifica e lo è anche e soprattutto nella classifica cannonieri, perché insomma non succede spesso di vedere che il primo goleador dopo 8 partite, ripeto, ne ha 7 segnati ed è di una squadra in Novara, si chiama Gonzales, e il secondo si chiama Bertani, ne ha segnati 6 e insomma mi sembra sia vicino a fare concorrenza a sua volta a Gonzales, detto il postino, come vedremo poi con calma. Ora, siamo collegati con l'artefice numero uno di questa impresa, che è iniziale, per carità, perché il campionato, soprattutto di B, che è lunghissimo, è appena partito, ma rimane pur sempre fino a qui un'impresa. Buongiorno e benvenuto ad Attilio Tesser. Buongiorno, ben trovati a voi. Grazie. Senta, io intanto mi scuso per averla disturbata a quest'ora, perché so che col turno infrasettimanale di mercoledì lei mi ha appena detto che cosa stavate facendo lei e il suo staff, e se ce lo racconta mi sembra molto professionale questo. Sì, noi siamo arrivati a luna questa notte da Udine, la trasferta di Udine, e stamattina già alle 11:30 ci siamo trovati per iniziare a vedere l'Atalanta, questa squadra super corazzata di Serie B che troveremo tra poche ore. Tra poche ore, perché il mercoledì, mi pare, no? Preveda. C'è il turno infrasettimanale mercoledì, sì. Certo, e quindi Novara-Atalanta a sto punto, oltretutto per vedere l'Atalanta ed avere immagini aggiornate, a sua volta ha giocato ieri sera, esatto, e vinto col Torino alla fine, quindi documentazione. Senta, la prima cosa che mi pare significativa del suo Novara è questo, che non ha patito per nulla il salto di categoria. Ora, è vero che quest'anno molte neopromosse stanno andando bene anche in Serie A, è vero che il Portogruaro, a parte la batosta di ieri, sta facendo a sua volta un'ottima stagione, ma insomma se c'è una squadra che non solo non l'ha patito il salto di categoria doppio, perché voi arrivate, no, non arrivate dalla C. Sì, no, sì, arrivate dalla C. La Lega Pro ha vinto il campionato l'anno scorso, certo. non dalla C2, diciamo così. Sì. Da cosa può dipendere? Anche dal fatto che avete cambiato così poco, cioè proprio per non dire nulla? Ma e questo era l'enigma che ci porta di dietro il cruccio, cioè abbiamo fatto un ottimo campionato di Lega Pro, questo bisogna dirlo, pur con tutte le dovute cautele del caso, piedi ben per terra, sì. Però l'abbiamo fatto, abbiamo vinto campionato, e a fine campionato col direttore sportivo Pasquale Sensibile, il presidente, abbiamo portato di portare avanti questo gruppo che ci ha dato queste soddisfazioni, portarlo avanti perché mi creda, difficilmente si trova uno spogliatoio così unito, chiaramente i risultati iniziali poi una conseguenza molto molto importante, e quindi abbiamo giocato molto sul fattore motivazioni gruppo, motivazioni perché metà, tre quarti di questo gruppo non ha mai giocato in B, e il gruppo che abbiamo creato lo scorso anno è stato un gruppo importante. Oggi siamo prestissimo, siamo solo alla 7ª di campionato, sì. Stiamo facendo bene, questo c'è da essere contenti, come stanno facendo bene, come diceva giustamente lei, anche le neopromosse. E io penso che questo sia una questione ormai di una mentalità, della fiducia con cui queste neopromosse partono, sì. Ecco, nella consapevolezza però poi di un campionato lunghissimo dove i valori tecnici di squadre, portiamo l'esempio l'Atalanta che arriverà tra poche ore da noi, come già detto, hanno un potenziale decisamente superiore. Poi certo. Staremo a vedere. Poi si vede in campo. Senta, l'anno scorso, se non ricordo male, siete arrivati addirittura a 30 partite di imbattibilità iniziale, no? Quest'anno avete già pagato a Dazio, a Varese, sia pure a rate, no? Perché avete perso, giocato un pezzo di partita prima e un pezzo in recupero poi. Sì, e a Torino abbiamo perso una. E a Torino, è vero, è vero. Quindi quest'anno avete già dato. Abbiamo... Però... se abbiamo già dato, ma io penso che quello che abbiamo fatto l'anno scorso sono quelle annate che capitano veramente una volta ogni tot anni. Difatti c'era un record che era di Gigi del Neri, tra virgolette, la 31esima partita con la sua Ternana di imbattibilità. Noi siamo arrivati a 30, siamo andati vicini. Adesso abbiamo già avuto due sconfitte, appunto perché il campionato dimostra che è di un'altra categoria, di categoria superiore. Perdiamo la partita col Torino, c'è stata una prodezza di Bianchi che ci ha sconfitto, diciamo così. Certo. E questo dimostra la categoria, quando parliamo che poi alla fine le qualità escono, ecco, lì un giocatore ha fatto la differenza. Beh, però poi voi gli avete, se non ricordo male, un po' di cronache, li avete messi ai paletti fino all'ultimo minuto, addirittura in 9 mi sembra che non avete pareggiato, proprio perché evidentemente era scritto così nelle stelle, quindi la personalità, il carattere di questa squadra c'è, insomma. Sì, il 9 abbiamo fatto meglio che noi in 11. Quindi vede che è un paradosso, ma è la verità, abbiamo rischiato fino alla fine di poter pareggiare. Esattamente con quelle armi che lei ha appena citato, che fanno parte di quella componente gruppo e di mentalità che si è instaurata nella squadra. Guai se non c'è quello. Senta, è un bel momento, mi pare, per il Nord-Est, no? Perché il suo accento tradisce le origini. Lei è di Montebelluna. Sì. Mi pare che è di Reia, che ieri ha festeggiato 65 anni, che è goriziano, è in testa alla Serie A. Gigi Del Neri, lei l'ha appena citato, che è un altro della vostra, insomma, più o meno, no? Generazione, e comunque della vostra terra, sta facendo a sua volta molto bene, quindi mi sembra che No, è un bel momento, speriamo che prosegua per tutti così, saremo tutti molto felici, io e Del Neri, a far bene nelle rispettive categorie, e in questo momento direi addirittura prima classifica con la Lazio, quindi questo sarebbe un bel segno. E quello che poi tutti noi che lavoriamo nella consapevolezza delle difficoltà e che magari non sarà sempre così, però faremo di tutto perché questo piccolo sogno non si realizzi il lungo possibile. Senta, io le devo chiedere adesso un minuto di pazienza, perché le nostre scadenze prevedono un minuto e mezzo circa di suggerimenti per chi è in strada, strade e autostrade. Poi avrei ancora due o tre curiosità anche più personali calcistiche, ovviamente, su di lei. Traffico. Beh, a questo punto, da Tiglio Tesser, allenatore del Novara, mi piacerebbe sapere che effetto gli ha fatto ieri questo ritorno al Friuli, dove lui ha giocato nell'Udinese per 5 anni, per 100 partite, segnando anche 6 gol e giocando, insomma, nella più grande Udinese di tutti i tempi, quella di Zico. Sì, effettivamente è così, perché io, come diceva lei, sono di Montebelluna, provincia di Treviso, Veneto, e però adesso sono stabilizzato lì a Udine, quando ho fatto calciatore mi sono sposato lì, quindi rientrare lì, bene o male, tanti amici, è sempre, è stato molto molto piacevole, al di là del risultato finale, chiaramente lì ho 5 anni di, su quel campo lì, 5 anni di lavoro, 5 anni di emozioni, 5 anni di soddisfazioni, quindi è stato un bel ritorno. C'ero già tornato con l'Ascoli per un momento su una partita del campionato di Serie A contro l'Udinese, ci sono tornato ieri ed è sempre piacevole entrare a casa. Un paio di curiosità sul Novara. La prima è il campo sintetico. Allora, un po' di male lingue sostengono che voi avete questo, diciamo, vantaggio, nel senso che giocando in casa siete più abituati al terreno sintetico. Può anche darsi, io penso che in una certa parte possa essere così. Ieri però i 5 gol li avete segnati fuori casa. Sì, avevamo vinto ieri 5, abbiamo vinto facendo bene, abbiamo vinto a Cittadella facendo un po' meno bene, abbiamo pareggiato a Padova su un bellissimo campo come la Piani, facendo molto bene. E guardi, la storia del sintetico è che è un campo che permette a tutti di giocare molto bene a pallone, perché al di là che può piacere, anch'io sono della vecchia generazione della vita e in tutto, e quindi si figuri lei. Sentimentalmente a noi piace l'erba, poco. E tutto. Ecco, bravo. Tutto, però la velocità con cui corre la palla, non c'è un rimbalzo irregolare se non raramente, cioè favorisce realisticamente chi vuole giocare a pallone. Per quanto riguarda i vantaggi, io le dico la verità, noi ci alleniamo lì sopra, andiamo a fare le ultime due rifiniture che sono, non andiamo mai tutta la settimana, quindi noi, a differenza degli avversari che vengono a provare, noi concediamo il campo sempre il giorno prima, sì. Facciamo un allenamento in più per gli avversari. Cercate di giocare ad armi pari, insomma. Di quello che arriva, non è che andiamo lì a sfruttarlo tutta la settimana, che impariamo il rimbalzo, no. Andiamo giocando al sabato, andiamo al giovedì e al venerdì a fare le due rifiniture tattiche più per i punti di riferimento, ma non tanto per se scivola, se rimbalza, perché dopo 5 minuti il campo lo conosciamo noi, lo conoscono gli altri. Lo dico questo sinceramente perché lo penso, perché se avessimo la fortuna di sfruttare il campo sintetico e questa capacità proprio di sfruttare il campo sintetico, dovremmo essere svantaggiati poi quando andiamo a giocare a giocare altrove. Perché noi sì che dobbiamo adattare eventualmente a due realtà e non a una solo, una tanto come fanno le altre squadre. Vero, quindi la questo. Realtà è che noi ci alleniamo sempre sul campo in erba finché il tempo ce lo permetterà, andiamo regolarmente sul campo in erba, noi giochiamo mercoledì sera, bene, oggi facciamo il nostro allenamento qui a Novarello sul campo in erba, sì, tanto per essere chiari, domani mattina andiamo a fare la rifinitura, arriva l'Atalanta, va a farlo domani pomeriggio sul nostro campo. Sì. Questa è la verità, quindi quel vantaggio che ci vogliono dare, mi creda, lo dicono chi vuol tirare fuori delle scuse. Poi, che il campo possa piacere o non piacere, che piace più l'erba o il sintetico, è un altro. Questo è un altro discorso. Senta, parliamo di questi due, che, bomber, no? Perché credo che l'unica definizione sia questa. Intanto ieri io ho visto i gol di questo Gonzalez, li ho visti un paio di volte, ha segnato 4 gol, uno completamente diverso dall'altro, ma, cioè, se questo giocasse sempre così, ho paura che a Novara resta poco. Però lei si è prospettata l'ipotesi che adesso fino a gennaio questa coppia d'attacco, questi gemelli del gol, restano in sicuro a Novara. Comincia a temere qualcosa per il mercato di gennaio oppure a fede? Allora, se i miei si fermano a questi gol, non avremo nessun mercato di gennaio. Se come mi auguro di avere questi problemi a gennaio. Certo. Quando avremo messo via magari qualche punticino, no, al di là delle battute. È una bella coppia, giocano bene assieme, si integrano veramente bene. Sono due giocatori che con loro due bisogna giocare su in velocità, sugli spazi, che sono molto, molto giocatori molto veloci, molto rapidi. E quindi stiamo cercando di sfruttare al meglio queste caratteristiche. Pablo ieri ha trovato una giornata sicuramente felice, particolare, perché non è da sempre fare 4 gol. Però sta facendo, da noi è arrivato lo scorso anno, è arrivato in prova ad agosto, l'abbiamo tenuto, ci abbiamo creduto, anche se non veniva da nomi illustri, veniva da Locarno, dove non aveva nemmeno tenuto in Serie B Svizzera, però. Certo, quindi noi ci abbiamo creduto, come appunto tenere lì come rincalzo. È cresciuto, ha una dote, questo modo di attaccare la profondità, gli spazi, che veramente può essere devastante, ed è un ragazzo che secondo me ha dei margini di crescita veramente ancora notevoli. Però dunque, riassumendo, perché ho letto qualche sua dichiarazione, qualche sua buona frenata, no? Saggia frenata di stamattina, io così a occhio mi sembra che Siena e Atalanta, non dico facciano corsa a sé, ma insomma siano le due corazzate da battere per i due posti sicuri. Poi il playoff si gioca. Il Novara che ricordo era arrivato alla ribalta lo scorso anno già per quella migrazione di massa a San Siro, no? Per la partita di Coppa Italia col Milan. Il Novara ha, come dire, ci ha preso gusto l'anno scorso e ha intenzione di inserirsi verso il grande calcio, oppure gli obiettivi restano limitati? Guardi, ho la fortuna realistica di lavorare con la proprietà, la famiglia del Salvo, che da quando è arrivata a Novara in 2 anni e mezzo, 3 anni, ha cercato di fare le cose nella maniera da imprenditore. Ha creato una base, una struttura, che è questo centro di Novarello molto bello, che ci permette a noi tutti di lavorare in una determinata maniera, positiva chiaramente. Ai giocatori che arrivano capiscono che sono entrati non in una società di passaggio, ma in una società che vuole fare le cose fatte serie, e questa è già una base, direi, di partenza non indifferente. Per quanto riguarda la squadra, l'anno scorso avevamo l'obiettivo, io nel mio prima annata, una squadra rinnovata quasi in toto, sono rimasti 4 o 5 degli anni precedenti, l'obiettivo di conquistare i playoff, di aver fatto un programma biennale per cercare di appunto la risalita a massima categoria nella Serie B, l'abbiamo centrato subito e si è creato un gruppo, come dicevo all'inizio, una mentalità di squadra che oggi noi ce la stiamo portando. Il nostro obiettivo è sempre stato dichiarato, mio dall'inizio di stagione, il direttore, noi dobbiamo centrare la salvezza, perché dopo 33 anni, e ripeto 33 anni non sono pochi, di una squadra che aveva un passato importante come Novara, come no? È città di Piola, tanto per essere chiari, stato per dirne uno, ha giocato qua, e il nostro obiettivo rimane quello, di prendere la salvezza. Se poi ci salviamo a 7 domeniche e abbiamo ancora qualche cosa da fare, facciamolo. Noi lo vivremo alla giornata, partita per partita, perché, signor Granzini, io sono molto contadino, diciamo così, io do questo, lui deve fare proclami, il campo certo, è lì, si certo. Gioca, si lavora e ci si va a confrontare lì. Certo. Quello che faremo lo dirà sempre il testimone del campo, poi possiamo avere progetti, pensieri, speranze, soprattutto dentro di noi, di voler fare bene. Noi faremo di tutto per continuare questo che oggi è una bellissima realtà, un bellissimo momento, e noi siamo i primi interessati a volerlo portare certo. avanti. Però l'obiettivo deve rimanere la salvezza, tutti devono essere consci di questo. Sai che mi sta facendo sentire in colpa perché le ho rubato un quarto d'ora di tempo di visione Atalanta, dalla passione che lei ci mette nel raccontare. No, ma sto scherzando, però sì, insomma. Sì, no, ho capito bene che scherzo. Ma il messaggio è chiarissimo. Tesser, grazie. Grazie a lei, arrivederci. A presto, ci sentiamo presto, buongiorno. Niente Serbia per Daniele De Rossi. È già tornato a casa il centrocampista della Roma per un risentimento muscolare alla gamba sinistra che lo rende indisponibile per la sfida di domani sera a Genova, Italia-Serbia per l'appunto. Il posto di De Rossi se lo giocheranno Marchisio e Palombo. Prandelli si è riservato di decidere entro sera, cioè entro l'allenamento del tardo pomeriggio a Marassi. Gli azzurri stanno per lasciare Coverciano, sarà verso le 4 più o meno, per raggiungere Genova in pullman, e per l'appunto primo appuntamento a Genova, la rifinitura a Marassi. C'è in linea Lorenzo che ha chiamato da Belluno, buongiorno. Buongiorno Granzini. Dica. Volevo fare i complimenti intanto a Tesser per questo nuovo modello che di società che hanno costruito in pochi anni. Sembra un po' il Chievo storico di qualche anno fa, che comunque sta continuando a far bene. Credo che Novara, grazie a questo straordinario allenatore che è anche quasi mio compaesano, essendo io di Belluno e lui di Montebelluna, credo che abbiano creato, oltre a un gruppo, un modello che è stato unico. E credo che in C1 avessero, secondo me, una corazzata molto a livelli molto alti. Infatti l'hanno vinta sul campo meritatamente, facendo veramente una serie impressionante di vittorie. Credo che comunque abbiano un'ottima squadra anche per la Serie B, e vedo che c'è una grande umiltà da parte del mister e di tutta la società, compresi i giocatori, nonché i due bomber di cui ho sentito l'intervista ieri sera. Credo comunque che faranno veramente molto in Serie B, e come dice Tesser, alla fine delle ultime giornate, chissà, magari in qualche punto siamo vicini ai playoff, magari un pensierino lo si può fare. Quindi sì, complimenti a questa squadra che dà veramente piacere a guardare. Ieri sera ho visto i gol del postino, molto molto belli, molto molto variegati. Postino perché l'abbiamo ricordato prima, perché ha fatto che il postino Gonzales in passato ha avuto disavventure varie, ma ne ha avuto anche Tesser di disavventure da allenatore. Cioè, Cellino riuscì a licenziarlo dopo una giornata sola a Cagliari, è rimasto al momento un primato, poi credo che nel frattempo questo primato sia stato condiviso, anche perché al momento nessuno ha ancora licenziato un allenatore nell'intervallo tra il primo e il secondo tempo. Beh, insomma, una giornata non è moltissimo, no, per valutare un tecnico. Complimenti a Tesser, scrive Liam da Venezia, lo ricordo sin dai tempi della primavera del Venezia come un ottimo allenatore. Arriviamo all'Italia, in attesa poi di altri interventi in diretta vostri nella seconda parte del programma. Vi ho già detto che non giocherà De Rossi. Quello che è giusto sapere è che la Serbia non sarà un avversario di comodo, perché ha perso una brutta partita venerdì mentre l'Italia pareggiava fuori casa a Belfast, ha perso in casa una partita che stava vincendo e si è fatta rimontare e poi travolgere nel finale. Ma questo non significa che i serbi, a maggior ragione, non puntino sulla partita di Genova per raddrizzare il loro girone. Sentiamo i propositi di Stankovic in materia. Le qualificazioni sono molto corte, sono 10 partite e contro l'Italia è quarta. La partita della vita no, ma la partita se perdi può essere tagliato fuori. Noi siamo un po' popolo, un po' orgogliosi, forse tanto. Ci riescono i colpi, ci riescono ogni tanto con la rabbia, ma con la mentalità giusta. Organizzati, ci mancherà tantissimo Vidic, che è un nostro punto fisso, la nostra forza. Mi dispiace, anche così dobbiamo guardare avanti. Vediamo domani sera come va questa partita. La prima, e magari ne parliamo insieme dopo, per l'appunto, dopo l'intervallo, la prima è andata così, insomma, si poteva certamente, non dico fare molto di più, perché l'Italia non ha certamente giocato male a Belfast, ma si doveva tornare con la vittoria, con tutte le occasioni avute e regolarmente sprecate. Dopo l'intervallo, dopo l'aggiornamento delle borse. Un gran numero di ascoltatori mi segnalano che il record di Cellino con Tesser di una giornata è stato in realtà battuto quest'anno dal Bologna, che ha esonerato Colomba in precampionato. Per esempio me lo scrive Fabrizio Gerosa da Ornago, lo scrive Davide Colombo, lo scrive, insomma tutti, non riesco a citarvi perché siete troppi e il display non Michele da Padova, il display non riesce a contenerli tutti. Ancora uno Stefano che non dettaglia oltre le generalità, però sì, è vero, questo è oggettivamente vero se parliamo di primati in assoluto. Io credo che ci sia ancora differenza tra il licenziamento preventivo e quello dopo una giornata, perché il preventivo può essere che è insorto qualche problema di compatibilità durante l'estate, una campagna acquisti non soddisfacente o non soddisfatta, non corrispondente a patti o che ne so. Però una giornata vuol dire che il campionato l'hai iniziato, no? E se ti basta una sconfitta per licenziare l'allenatore, secondo me quello rimane un primato. Mentre invece un altro primato, e questo me lo scrivono un altro discreto numero di ascoltatori, Paolo per esempio, Roberto da Arezzo, dice che in una squadra inglese di campionato minore l'allenatore è stato effettivamente esonerato nell'intervallo, che era il mio paradosso precedente, con una telefonata al cellulare. Poi qualche altro di voi sta cercando di trovare dei dettagli e non ho dubbi che prima o poi ce la farà. Io giuro che questa la ignoravo, ma insomma, sono stupito fino a un certo punto, perché non c'è limite alla fantasia dei presidenti o dei datori di lavoro calcistico o dei tenutari di squadre di calcio a scelta. Prendete voi la definizione che preferite. Ci sono altri ascoltatori collegati, io li farei precedere da una divertente dichiarazione buffa, trattandosi di Buffon, una dichiarazione buffa di Buffon sul conto del suo temporaneo successore in maglia azzurra, cioè di Viviano. Anche dopo un Bologna-Juve abbiamo parlato, non è tanto regolare, però mi fa molto piacere perché tutti questi personaggi che vengono additati, ecco, in maniera bonaria, come matti così, secondo me sono personaggi dotati di una grandissima sensibilità e una grandissima genuinità. Sono poi personaggi che piacciono alla gente. E questo era, vi ripeto, Buffon sul conto di Viviano e sull'elogio di una l'elogio della follia. Adesso non siamo a Erasmo da Rotterdam, siamo semplicemente a questa componente, a questo pizzico di pazzia che in un portiere in particolare non guasti mai. Il licenziamento preventivo, scrive Giacomo, permette all'allenatore di lavorare altrove, mentre l'esonero dopo una partita solo lo blocca per l'intera stagione. E questo è anche vero. Mi precisa Franco Piantarida dalla regia che ad Ancelotti l'esonero dalla Juve fu comunicato nell'intervallo di Juve-Atalanta del 2001. Era l'ultima giornata e la Roma, che stava già vincendo 2-0 con il Parma, andava verso lo scudetto. Nell'intervallo, questa non sapevo nemmeno questo, ho l'impressione che dovrò dedicarmi un po' di più al gossip sindacal calcistico, insomma, di questo genere di cose. Roberto, provincia di Mantova, buongiorno. Buongiorno Garanzini. Dica. Allora, campi sintetico, fermo restando la mia simpatia per Tesser, che rappresenta quegli allenatori per bene, ce ne sono tanti che citava lei, ma penso tagliato. Sì. Il campi sintetico è un bel vantaggio e fa parte di una logica. di calcio, penso che le partite di serie B si vede anche lei, in cui non ci sono neanche delle regole fondamentali. Voglio dire, a tennis, quando si fa un torneo sul sintetico, giocano tutti sul sintetico, poi Tessera è simpaticissimo e racconta la storia come vuole lui. Io al suo posto mi metterei a allenare i miei calciatori, che forse non sono bravissimi come lui dell'Udinese di Zico, a sfruttare ogni centimetro. L'ascolto, grazie. Il sintetico è un'anomalia, su questo non c'è nessun dubbio. Io sono d'accordo con lei sul fatto che le regole dovrebbero essere uguali per tutti e quindi uguali le superfici, cioè la parità di trattamento. Se si gioca un torneo su terra battuta, tutti in quel torneo giocano su terra battuta, che sia quella del Roland Garros, che sia quella del centrale del Foro Italico o dei campi del Foro Italico, e quindi credo che un campo sintetico sia un'anomalia. Nel calcio esistono anomalie di questo genere da molti anni, per esempio in Inghilterra, dove ci sono dei campi in sintetico. Dicono gli esperti, dicono quelli che li hanno attestati, che i sintetici di ultima generazione in realtà non hanno una differenza così sensibile rispetto al campo in erba tradizionale, come invece accadeva fino a qualche anno fa. Delle cose dette da Tesser, una è certamente vera, che se ci fosse una differenza così netta tra giocare sul sintetico e non, il Novara dovrebbe risentirne nettamente fuori casa, se ammesso che in casa sia un vantaggio per la squadra che ci è più abituata, dovrebbe essere uno svantaggio fuori. Così non mi pare che sia, visto il rendimento che il Novara sta avendo fuori casa. Poi ovviamente c'è libertà di opinioni. Credo che anche Radice fu esonerato dal Cagliari prima dell'inizio del campionato, e forse Radice fu esonerato dal Cecchi Gore durante l'intervallo, scrive Gaetano Da Lucca. Beh, la rissa scatenata da Cecchi Gore, dall'immortale Cecchi Gore, in un intervallo di un Fiorentina-Atalanta nei confronti di Radice è rimasto qualcosa, cioè intanto ha travalicato i muri degli spogliatoi perché era troppo grossa, ed ha indubbiamente fatto epoca. Che poi davvero in quel momento si sia deciso l'esonero, questo non lo saprei, anche perché Radice riuscì molto signorilmente a controllarsi nonostante le scalmane dello scienziato, uno dei tanti, mica l'unico, uno dei tanti che hanno inventato il calcio in tutti questi anni. Alberto in linea da Milano, buongiorno. Buongiorno dottor Garanzini. Dica. Siete, collegandomi a, prima abbiamo citato gli allenatori del Nord-Est che poi storicamente hanno sempre fatto molto bene, Luigi Del Neri. Io sono un tifoso juventino che devo ammettere ero molto scettico nei confronti del lavoro di Del Neri, ma perché noi tifosi siamo anche così, no? Quando non arrivano subito i risultati, alla fine sostanzialmente alla quinta e sesta del campionato già si vedono dei segnali positivi. Da Juventino, ecco, c'è un elemento di preoccupazione che riguarda il reparto che tutti dicevano invece dovevamo a posto, no? Che è l'attacco. Perché io poi ho visto la partita con l'Inter, l'ho tra l'altro rivista su una Pay TV recentemente. Penso che in attacco noi siamo fortemente limitati, ma non per l'impegno di professionisti, perché gli Aquinta, Mauri, Quagliarella sono sicuramente dei professionisti che si impegnano anche e buttano l'anima. Però io credo proprio che sia il reparto dove noi dovremo nei prossimi anni investire, probabilmente anche nel reparto, ecco, mentre nel reparto di centrocampo, difesa, anche l'investimento sui giovani ha già dato dei frutti, penso a De Celio, lo stesso Chiellini, Marchisio. In attacco la Juve sono diversi anni che non ha un attaccante, forse l'ultimo acquisto veramente è stato quello di Ibrahimovic 6 o 7 anni fa. È un problema, credo, anche in proiezione futura, anche perché la Juve non ha una politica che possiamo spendere i 40 o 50 milioni di euro. Ci sono dei, anche lì c'è Pasquato, per esempio, volevo la sua opinione, del Modena, che mi sembra un ragazzo molto molto dotato in proiezione futura, però credo che lì la Juve dovrà pensare di incominciare a seminare qualcosa, perché forse, ripeto, proprio in proiezione futura è reparto un attimino più critico. Sì, in proiezione futura può essere. Io ho perplessità, se devo dire le mie, io ho perplessità sulla coppia centrale difensiva. Le ho sia quando ho la maglia bianconera che quando ho la maglia azzurra. L'altra sera ho sentito tessere elogi sulla coppia Bonucci-Chiellini a Belfast. Ho visto la partita con una certa attenzione, non ho mai fatto il difensore in vita mia e quindi non ho una particolare competenza sui movimenti loro, semmai per antiche esperienze è davanti che mi intriga di più e che posso cercare di immedesimarmi. Okay. Ho visto due o tre errori di sintassi, di errori di grammatica ho visto nella coppia centrale difensiva e mi sembra di vederli con una certa costanza sia con una maglia che con l'altra e quindi come vede tutto è opinabile. Poi è vero che le partite si vincono con i grandi attaccanti che ti firmano il risultato anche giocando male, ma si perdono però con le leggerezze come quella di Bonucci dell'altra sera su quel colpo di testa incredibile concesso a un avversario a 3 metri dal palo. Andrea ha chiamato la Biella, buongiorno. Buongiorno, una riflessione. Siccome si è detto che è bello che ed è giusto che ci sia parità di condizione parlando dei terreni di gioco, sì. Volevo portare la mia esperienza. Io ho 37 anni, per una quindicina di anni ho giocato in categorie poco più dell'oratorio, diciamo, terza categoria, seconda categoria e giù di lì. E guardi che nel calcio minore le condizioni sono inesistenti, perché molto spesso si gioca in dei campi, noi che siamo biellesi, certo. Garanzini, conosciamo la situazione della Valsesia, insomma, in cui molte volte si gioca sul ghiaccio, sul pantano, sulla terra battuta. Qualche volta incontriamo anche l'erba. Per esperienze passate da quelle parti, proprio di rado l'erba. Ci sono dei campi, adesso potrei citare dei paesi, ma Porto, La Praia, quei posti lì sono veramente disastrosi. Per motivi lavorativi, recentemente ho avuto il piacere di fare due palleggi sul campo del Novara, il famoso campo sintetico che ho pestato. Beh, io avrei voluto giocare tutta la mia vita da giocatore poco più dell'oratorio su un terreno così e apparentemente non c'è nessunissima differenza con un'erba ben tenuta come può essere uno stadio la Marmora di Biella, ecco, insomma. No, sì, Andrea, no, d'accordo, ma la sua osservazione è misurata, è competente e viene da una lunga esperienze tra fila. Altro però è il calcio amatoriale o il calcio dilettantistico, altro è il calcio professionistico. Nel calcio professionistico, io sinceramente, non è tanto per la disparità di trattamento, ma è per il fatto che tutti dovrebbero giocare teoricamente in condizioni uguali. A livello professionistico, in quello dilettantistico magari queste cose sono sempre successe e non è soltanto nei campi delle valli biellesi che i terreni sono infami, perché ce ne sono tanti e tanti altri. Siamo poi in ritardo per il traffico. Allora, dopo una breve indagine, lo sceriffo Piantanide in redazione è riuscito a venire a capo effettivamente della segnalazione di alcuni ascoltatori, e cioè di un allenatore licenziato via cellulare nell'intervallo di una partita. È successo la settimana scorsa in Inghilterra, però è successo che questo Mark Poulton, allenatore del Chichester da appena una settimana, è stato esonerato all'intervallo della Ruhr Charity Cup, che sarebbe la coppa della contea del Sussex, una cosa del genere. Allora, io non escludo che anche nelle valli biellesi di cui si parlava prima possa capitare che nell'intervallo di una partita, oppure tra un calcio d'angolo e una sostituzione, non so, ci possa essere qualcuno esautorato, insomma, ad alto livello, diciamo che al momento non era ancora accaduto. Bene, sentiamo, visto che stiamo ripassando l'attualità stringente, torniamo indietro con Nicola Filippone a un 11 ottobre. Sembra ieri. 11 ottobre 1962. All'estadio da Luz di Lisbona, il Santos di Pelé conquista la Coppa Intercontinentale battendo il Benfica di Eusebio. Dopo il successo in casa per 3-2, i brasiliani infliggono alla formazione lusitana una lezione a domicilio, vincendo per 5-2. Pelé, già autore di una doppietta all'andata, si mette in mostra anche a Lisbona, con una tripletta e un assist per il 3-0 di Coutinho. Il Benfica fallisce così per il secondo anno consecutivo l'appuntamento con l'Intercontinentale. Nel 1961 erano stati gli uruguaiani del Peñarol a negare ad Eusebio e compagni il trofeo. Il Santos invece farà il bis l'anno successivo contro il Milan di Luis Carniglia. Vero, vero. Al termine una doppia sfida che definire drammatica è poca. Nicola Filippone ha scelto questa data dopo opportuno spareggio con altre due date di oggi. Intanto compie gli anni Bobby Charlton, cioè una delle leggende del calcio europeo e mondiale, e poi l'11 ottobre del 61 la Roma vinse la Coppa delle Fiere, quindi l'unico suo trofeo internazionale in bacheca, battendo l'Olimpico il Birmingham per 2-0. La formazione di quella Roma, perché forse qualche nome suggestivo lo ricorderete: Cudicini, Fontana, Corsini, Pestrin, Losi, Carpanesi, e poi in attacco c'erano Alberto Orlando, che giocò e segnò un sacco di gol anche in nazionale, Lo Iacono, Manfredini, Angelillo e Menichelli. Diciamo che l'anagrafe non era dalla loro parte, perché molti di loro erano abbastanza avanti con gli anni, ma certamente dal punto di vista tecnico era gente che se la cavava discretamente. C'è in linea Omar da Pavia, buongiorno. Buongiorno. Dica. Premetto che l'ascolto sempre molto volentieri, pur non occupandomi di calcio, perché non è uno sport che mi piace tantissimo. Ho sentito che parlavate dello stadio di Novara. Un mese fa, in occasione di uno dell'associazione paramotoristi italiani a Novara, lì vicino Casalgiati, abbiamo sorvolato il campo a bassa quota con il paramotore, e devo dirle che rispetto ad altri campi l'erba sintetica vista dall'alto è assolutamente molto molto più bella da vedere come effetto scenico rispetto all'erba normale. Quindi poi se si giochi meglio o meno non lo posso sapere, però esteticamente è molto molto più bella, da un aspetto più uniforme, un colore completamente diverso. Sì, sì, Omar. No, è una testimonianza interessante da un punto di vista cromatico. Poi in realtà insomma, la cancia la si giudica pestandola, no? E vedendo quanto è funzionale al gioco, e insomma le gibbosità, i rimbalzi, l'erba troppo alta, troppo bassa, la palla frenata, la palla che corre troppo, dall'alto va bene, lei ci ha dato un elemento in più. Matteo Verona, buongiorno. Grande Gigi Garanzini. Ehi, sono un grande suo estimatore, soprattutto per il suo equilibrio e la professionalità con la quale esprime le sue opinioni. Prima stavate parlando dei giovani, ho sentito un ascoltatore che ha parlato di Pasquato, dei giovani della Juve, e volevo intervenire per quanto riguarda questo tema. Ma io volevo dire, ma non è possibile in Italia investire di più su giocatori come Ciro Immobile, come Soriano, come Marilungo, come giocatori che hanno partecipato al torneo di Viareggio. Cosa vuol dire investire di più? Cioè investire di più soprattutto nel farli giocare, nel dargli un ruolo, dargli più all'interno, fiducia. All'interno della squadra, perché io tutti gli anni vado a vedere il torneo di Viareggio, e quest'anno Immobile è stato diciamo di 2-3 gradini sopra tutti, Marilungo l'anno scorso, però questi giovani fanno fatica perché non gli viene dato spazio. Allora questo volevo ascoltare la sua opinione su questo, insomma, ecco, perché è un vecchio discorso, Matteo, nel senso che all'estero non accade. Poi io non so dire se quelli che ci provano all'estero, cioè se quelli che vengono lanciati all'estero e vengono messi a mollo e poi se sanno nuotare bene, se non sanno nuotare qualcuno li salva, e poi in Italia è diverso, cioè c'è sempre questo protezionismo, c'è la società è una chioccia che li deve covare con calma, poi magari li manda a covare in provincia perché lì dovrebbero avere più spazio, poi in realtà spesso e volentieri quel periodo di maturazione finisce per essere un esilio che non ti dà la dimensione vera. Io la penso come lei, e cioè se sai nuotare me lo fai vedere subito, ma soprattutto se io sono il Milan, lei sta parlando della Juventus, facciamo la Juventus, se io sono la Juventus e voglio sapere se Immobile è un giocatore della Juventus, è inutile che lo mandi a fare pratica a Modena, a Pistoia, a Siena, in qualcuna delle succursali antiche, per vedere come se la cava, perché mi verrà restituita la dimensione di un giocatore che magari è bravissimo a Siena o a Pistoia o a Modena, ma non so ancora se è buono per la Juventus. Credo che l'esempio di Giovinco, ma proprio per dirne uno, sia abbastanza illuminante. Credo anche che questo valga per tutte le società, Mi sono sempre domandato perché questa sia invece la politica delle società e continuo questa domanda a tenermela insoluta, nel senso che una risposta non l'ho ancora trovata. Ecco, tutto qua. Luigi, provincia di Pavia, buongiorno. Sì, buonasera Garanzini, volevo spezzare una lancia. Si è fatto tardi. No, nel senso che se è sera, dica, spezzi la lancia. Mi scusi, ma... No, prego, si immagina. Allora, diciamo questo, volevo spezzare una lancia in favore dell'erba e non dei campi sintetici, perché intanto sono un ex calciatore di non grandissime... ho giocato in seconda categoria, non di più. Adesso mi hanno messo a fare l'arbitro per i bambini, che è uno sport bellissimo, perché con i bambini si lavora benissimo, però le voglio dire che giocare sul campo sintetico mancano due cose. Primo, il profumo dell'erba, che da vecchio romantico manca a tutti quelli che hanno giocato a pallone e che giocano sul sintetico. Secondo, che quando si esce dal campo sintetico fanno male i piedi in una maniera spaventosa, cosa che non succede sul campo d'erba tradizionale. Cosa che succedeva, Luigi, perché insomma adesso siamo andati avanti nel sintetico. Io ho fatto delle esperienze in passato, giocare anche a tennis sull'erba sintetica, e sinceramente non lo auguravo a nessuno, perché non era divertente. Ma stiamo parlando, nel mio caso sto parlando di un'altra epoca. Oggi questo genere di impianti è molto cambiato e non è sinceramente più così. Ne riparliamo domani con una inchiesta secondo me molto interessante sulla nuova mappa del tifo italiano e soprattutto sul nuovo modo di intendere il calcio da parte degli appassionati. Grazie per nel frattempo a Fabio Cantadoni in regia, a Franco Piantanida in redazione, e buon pomeriggio a tutti. Tempo di sport.